E sempre con questa fantastica musica jazz sotto che ci accompagna, bentornati a Runtime Radio, soprattutto nello specifico a OGM, oltranzisti gastricamente maleducati. Io sono sempre io, Simone Pizzi, quello che ogni tanto manca e se ne va a fare altri cazzi suoi. E però tanto alla fine la trasmissione rimane sempre in buone mani, perché anche questa sera abbiamo un parterre molto importante, veramente bello composto e variegato. Abbiamo Walter Sbano. Buonasera a tutti. Pizzi, ti devo fare i complimenti perché, malgrado oltranzisti gastricamente maleducati l'abbia pensato io, ancora non riesco a dirlo. Tu invece lo dici perfettamente. Grande. Anni. Di allenamenti. Esatto. Abbiamo ovviamente un altro membro originale, storico, che è Mark Gualdi. Buonasera, qui siamo in procinto di iniziare questa nuova giornata di guardate. Esatto. Posso dire che il Gemini Market lo vedo molto carico, si sta scaldando, ci sono già due persone che stanno di fuori e non rispettano minimamente la distanza di sicurezza. Ecco, sta passando una terza, ma viene ignorata. E niente, invece i vicini di Terrazzo stanno affacciati guardandosi le persone, guardandosi intorno, quindi diciamo sono un po' diciamo statici sul posto. E forse questa giornata non è molto importante perché si sentono molto avanti con i lavori che hanno fatto in questi giorni, cioè la ritinteggiatura della parete a cazzo di cane, poi la pulizia del terrazzo con acqua e acido che ha sicuramente anche corroso la copertura dell'elettraulico, del terrazzo che copre l'elettraulico, e sarà molto contento di questa cosa quando comincerà a piovergli dentro. Però li vedo molto tranquilli perché questo vantaggio che hanno fatto, che hanno sviluppato in questi giorni, probabilmente li fa sentire molto, molto sicuri del risultato. Insomma, scusa, okay. Marco, mi raccomando con i tempi, sì, dei collegamenti, sono importanti. Marco, sì, però sì, no, ti devo fare una domanda tecnica, poi ne parliamo meglio dopo. Mi devi dire come farai ai tuoi stalking d'ora in poi a discriminare quelli che usano l'app da quelli che non la usano, perché ovviamente farà differenza. Quello lo stiamo ancora vedendo, non sappiamo ancora come è possibile. Forse sono quelli che praticamente quando passa la gente comincerà a toccarla, sì, capiremo che probabilmente all'applicazione che gli ha detto tutto tranquillo, tutto a posto. Va bene, grazie. Bene, adesso ci arriviamo all'applicazione. Altro member di questa puntata è Francis McWall. Chi è? Chi cazzo? Francis McWall. Francesco McWallera. McWallera. Yes. Io stasera ho una sfida, diciamo, con me stesso, ragazzi, e vi chiedo di monitorarmi. Io stasera rimarrò sempre pacato, non mi incazzerò, starò tranquillo, discuterò di cose in cui vale la pena incazzarsi anche tanto, mantenendo la totale flemma. Amabilmente conversativo, diciamo. Sì, sta a voi monitorare il mio stato emozionale da questo punto di vista. Perché perché Francesco, se la scienza ci insegna una cosa è ad affrontare la vittoria come la sconfitta con calma, dignità e classe. Sì, la cosiddetta analisi della sconfitta che ci hanno tanto abituato i PD e altra gente. Però, ma si è capita la citazione? È fatta sbagliata, ma si è capita. Sì, infatti non era perfettamente esatta. Infatti, non me la ricordavo a memoria, però. Ma abbiamo sentito in voce anche Carmine Consul. La citazione esatta è Puccio. È accettare i nostri fallimenti così come i nostri successi con calma, dignità. E classe. Brutto figlio di puttana. Va bene, scusatevi. Comunque era Frankenstein Junior per quelli che non l'avessero visto. E approfitto a proposito per salutare i numerosi, ma veramente numerosi amici che già affollano la nostra chat parlando di cavoli loro. Salutiamo in ordine inverso Alex Raccuglia, Roberto Tomaiolo, Girasole, Lallabai, che prima ci diceva che oggi ci ascolta mentre corregge i compiti. E io, come dico sempre, lo dico anche sempre a Valentina, anche la insegna, bocciali tutti, blast them all. E insomma, vabbè, abbiamo salutato e saluto anche i pavidi che, come sempre, non si palesano perché si vergognano di ammettere che ascoltano noi, c'è invece di programmi di alta qualità. Cioè, è appena arrivato, perfetto. Ciao Al. Allora, ragazzi, alcune indicazioni importanti prima di partire con questa puntata scoppiettante, incazzereccia, molto blastimize. Però dovete considerare che Runtime, che è la radio che si è presa l'impegno di fare una, almeno una diretta al giorno, perché questo è il nostro contributo, diamo a questa brutta situazione, ha addirittura in fase di creazione nuovi contenuti. Diciamo, come sapete, ogni mercoledì sera, anzi ogni mercoledì notte, da due settimane va in onda una live, così, che alla fine, da live buttata lì in altri show, è diventata un proprio show singolo, quindi è diventato un feed. Abbiamo discusso su come doveva chiamarsi questa trasmissione. Si chiamerà Runtime by Night, così, che mi ricorda le mignotte, non so perché. Anche Runtime de notte, de notte, che sarebbe Runtime, esatto, Runtime de notte. Io ricordo Mila by Night agli albori di Radio DJ. Non so se ascoltavate, ma anche un po' Colpo Grosso. Beh, soprattutto, vabbè, però soprattutto quello me lo ricordo anche io, Colpo Grosso, figuratemi. Cioè, avevi sei anni quando è uscito Colpo Grosso. Sì, infatti, che te ricordi? Le videocassette. No, ricordo forse le repliche iniziali. Ma sì, ma poi l'hanno continuato a fare anche successivamente. L'hanno ripreso addirittura, mi ricordo, a un certo punto. Comunque va bene. E invece l'altra cosa è che c'è un nuovo podcast proprio originale, molto professionale, molto impostato, radiofonico, ma allo stesso tempo brillante, perché per chi non piace quel tipo di tema sarà comunque interessante ascoltarlo, ed è Gli scimmioni non leggono Nietzsche, che è un podcast fatto da Simona, che sarebbe la moglie di Walter Vannini, quindi qui siamo raccomandati. Che è la moglie, dai, perché sennò sarebbe, perché è la moglie di Walter Vannini. Che è la moglie di Walter Vannini, e che è molto interessante. Penso che domani potrebbe uscire il primo episodio, quindi uscirà una volta a settimana. È veramente un bel progetto, ben fatto, ben realizzato, insomma. Un po', se siete abituati, insomma, ad ascoltare Data Nightmare, diciamo che il tenore non è lo stesso, però l'impostazione professionale è molto molto simile. E proprio oggi sta uscendo la puntata nuova di Data Nightmare per concludere la settimana santa, così come dice Walter Vannini, che manderemo in streaming immediatamente dopo, comunque alla fine di questo episodio qui. Poi ci sono tantissime altre cose da dire, ma le diremo in coda, insomma. Detto questo, io direi che si può anche iniziare, insomma, perché la puntata di Walter Vannini, appunto, ci lascerà con un quesito importante che non vi dico, perché chiaramente dovete andare ad ascoltare la puntata, ma è un quesito che poi alla fine, insomma, secondo me un po' tutti ce lo siamo chiesto. E chiaramente, quale potrebbe essere l'argomento di Walter Vannini, se non questo discorso delle app, no? Questa cosa del tracciamento, tutta questo pretesto, diciamo, della pandemia per utilizzare, inventare e sviluppare e soprattutto buttare in mezzo tecnologie, tra l'altro con il beneplacito del governo, dello Stato, insomma, delle istituzioni. E questa è una cosa che a noi, con la completa mancanza di consapevolezza delle istituzioni, mi verrebbe da dire. Ma questo è in generale su tutto il discorso della digitalizzazione delle cose, assolutamente, roba, cioè, sempre, cioè, l'abbiamo detto, da dire, con il completo piegamento a 90 delle istituzioni del governo, non so se siete d'accordo. Ma secondo me, guarda, io sono in questa specifica situazione, un po' ragionandoci, perché sai, da montatore di Data Night, ma alla fine, mentre che ascolto, io comunque mi pongo delle domande. Secondo me, a un certo livello, cioè quando non si tratta di Google, cioè i grossi Amazon che vengono dallo Stato italiano e gli dicono: io ti do tanta solda, tu mi fai la digitalizzazione, io mi faccio i cazzi tuoi. Quando si tratta di queste cose un po' minori, diciamo così. Ma in realtà, scusami Simone, i giganti non vengono neanche con questo atteggiamento. Peggio ancora, vengono dicendo: te lo faccio io gratis e mi prendo i dati. È diverso. Secondo me la mazzetta sotto c'è sta sempre. Dai, ma al politico magari sì, però nelle casse dello Stato non entra niente. No, io dico: ti do soldi e tu mi fa le cose. Invece questa cosa, dove i soggetti sono anche soggetti minori, tra virgolette. Secondo me, io credo anche nella buona fede del politico, che il politico vede l'app e dice: deve essere una cosa figa, cioè, come l'italiano medio, uguale. App, tecnologia, cosa figa, insomma, questo è un po' il discorso. È arrivato Davide Gatti, ciao Davide. Ciao Davide, che se ne avrà da dire su queste cose probabilmente. E iniziamo da Walter, poi Puccio, Francesco, Marco. Intanto Marco, prima che loro iniziano, ci sono aggiornamenti lì dal... Allora, grossi aggiornamenti, no, è passata una signora completamente vestita di Bordeaux con la sport della spesa color Bordeaux e pantaloni Bordeaux, tutta Bordeaux, che portava due rotoloni, maxi rotoloni per non carta igienica ma carta, quello diciamo tipo asciugone, carta Scottex, carta, e andava allegramente in giro, carta casa, infatti carta e rotolone, quindi niente, c'è questo intermezzo, però è andata via abbastanza tranquillamente, insomma. Vai Walter, inizia tu. Allora io inizierei da un discorso a monte, e che io sono, diciamo, lavoro nell'ambito della tecnologia da bene o male 22-23 anni, e ho sempre avuto un approccio laico. E non voglio fare il, come dire, il comunista, mettiamola così, adesso vi spiego cosa voglio dire. Però io sono dell'idea che ci sono un certo tipo di infrastrutture che nell'ambito e nel novero di uno Stato sovrano devono essere pubbliche, devono essere gestite dallo Stato, a prescindere. Tra queste infrastrutture ci sono tutte quelle che sono strategiche. E posso parlarti di autostrade, come posso parlarti di linee, come dorsali telefoniche e apparati per le comunicazioni nazionali, infrastruttura di raccolta e gestione dei dati. Questo tipo di infrastruttura è più recente, quindi abbiamo questo grossissimo problema, e cioè che quando siamo entrati nell'era della digitalizzazione, l'Italia aveva già da tempo smobilitato e reso private la maggior parte delle infrastrutture. Quindi il concetto di un'infrastruttura pubblica in un settore che ormai è strategico dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista della sicurezza dello Stato e militare, è venuto a meno completamente, perché un'infrastruttura di questo tipo pubblica non c'è mai stata in Italia, ovviamente in molti altri paesi sì, e quindi adesso noi ci troviamo a dover gestire delle emergenze in una posizione deficitaria per natura, cioè non abbiamo un'infrastruttura pubblica, non possiamo tirarla su dal niente, non abbiamo nemmeno le competenze pubbliche per fare questo tipo di cose, e quindi vuoi o non vuoi ci dobbiamo appoggiare a dei privati. E dobbiamo fidarci di questi privati. Il risultato non è sempre quello che ci si aspetta, o per malafede o per casi fortuiti. Guarda anche semplicemente cosa è successo quando l'INPS ha acceso la famosa pagina per chiedere il contributo di 600 euro. Per un errore di configurazione di un sistema fatto in tre giorni è successa l'apocalisse. Era un errore banale, nel senso che chi ha configurato su un'infrastruttura cloud le pagine con cui si dovevano richiedere queste sovvenzioni si è dimenticato di escludere dalle regole di gestione dei proxy e delle cache dei dati quelle pagine. Questa cosa ha prodotto una serie di risultati drammatici. Praticamente i server hanno cominciato a rilasciare a caso pagine cacheate che non sarebbero dovute essere cacheate. Questo informaticamente è una banalità, però è il termometro del perché in Italia non si sanno fare le cose e perché non si possono, mancando una consapevolezza proprio alla base, fare in 448. Quindi quando torniamo al problema dell'app di cui parleremo adesso, il primo grossissimo problema è che in mancanza di una consapevolezza tutti, a cominciare dalle istituzioni e dal Ministero della Salute, credono che in poche settimane si possa tirare su un sistema delicatissimo come quello che deve gestire dati sensibili di tipo sanitario e quindi, tra le altre cose, la possibile positività al Covid degli individui, e farlo in maniera sicura e veloce. Questa cosa tendenzialmente non si può fare. Da qui poi nasceranno tutta una serie di possibili problematiche. Però passo la parola agli altri perché ho fatto un monologo. A parte che hai fatto una premessa che è lunga tutta la trasmissione, no? Esatto. Però detto questo, in realtà poi alla fine concordo con gran parte delle cose che hai detto, anche se comunque dobbiamo sempre tenere in considerazione che questa è una situazione particolare, no? Cioè ci può anche stare, no? Però detto questo, alla fine queste app, Puccio, fondamentalmente, perché poi è questo il problema di fondo, a che cazzo servono? Cioè, a parte che se sono su base volontaria non c'ha veramente senso una cosa del genere. Cioè, è un altro strumento da mettere lì, un'altra cimice da buttare lì all'interno di un meccanismo che già è abbondantemente sovraccarico di richieste di informazioni, di spulciamenti, di cazzo in mazzi. Vai. Diciamo il problema di fondo è che ci stiamo rifacendo un'esperienza che è quella che ha fatto la Corea del Sud, perché quelli del nord il problema l'hanno risolto in un'altra maniera. In cui lì non c'è il virus, è facile. Sì, non c'è il virus. Dice, c'è tantissimo avvelenamento da piombo. Può anche essere che non ci sia, non ci è chiuso il paese. Quindi, cioè, lì non ci sono i malati, non è che non c'è il virus. Esatto. Sì, diciamo, hanno scoperto che il piombo tende a far guarire le persone. Il problema è che ci stiamo rifacendo un'esperienza che è quella della Corea in maniera non conforme a quello che poi in realtà la Corea ha fatto. Cioè l'idea è stata questa, ma guardate come sono stati bravi i coreani, che hanno utilizzato un'app per indicare non mi sento bene, potrei essere infettivo, quindi mi arriva direttamente la visita a casa, mi fanno un test, mi dicono se sono infetto o meno. Da quel momento la mia app segnala che io, non con nome e cognome, che vivo in questa area, sono un potenziale veicolo di contagio, e quindi le persone, sapendolo perché la app li informa, si terranno lontani da me. Sì, è vero, ha funzionato, difatti la Corea gli è andato decisamente meglio di come è andata a noi, però c'è un problema. La Corea questo sistema non l'ha lasciato alla buona volontà dei suoi cittadini, l'ha imposto. Cioè in pratica, se non ti trovavano l'app sul cellulare andavi in galera, letteralmente. Inoltre anche peggio, comunque sì, hanno sospeso completamente il diritto alla privacy in Corea. No, de facto il Parlamento coreano ha fatto quello che per noi sarebbe un decreto, per cui le leggi sulla privacy venivano fortemente depotenziate per un periodo statico di tempo, non per sempre, per consentire questo sistema di tracciamento, e a quanto pare ha funzionato. Il problema, e citerò una persona che io odio profondamente, non esistono i pasti gratis. Cioè se stabilisci che quello è il sistema migliore e in effetti funziona, devi mettere in conto che questa cosa avrà un costo, dal punto di vista sociale, perché comunque c'è una comprensione dei diritti soprattutto del tuo diritto alla privacy. Ha un costo economico, il costo di questa operazione fatta in Corea è stato folle, è stato altissimo, e soprattutto ha un costo dal punto di vista dell'immagine, perché ad oggi non si hanno notizie di leak di dati raccolti dal governo coreano, però siamo ancora all'alba del fenomeno, quindi non c'è stato materialmente il tempo di probabilmente per chi è interessato di bucare quel sistema e scaricarsi i dati che gli interessavano. In più, ripeto, c'è la questione di fondo che i coreani hanno avuto un atteggiamento diverso rispetto al nostro. Sono andati spontaneamente a farsi test, è vero che hanno usato quelli meno sicuri, che sono quelli che vengono definiti nella macro categoria dei test sierologici, però hanno aderito con gioia e spontaneamente a questo tipo di iniziativa. La prima cosa che è successa in Italia è che è partito un dibattito parlamentare sul fatto che sia legittimo o no chiedere ai cittadini di autodenunciarsi se stanno poco bene. Scusate, però io a questo punto faccio un passo indietro e dico: noi siamo un paese in cui se tu denunci di avere una positività in famiglia, la prima cosa che ti dicono è: vabbè, statti chiuso in casa 15 giorni, se nel caso ti veniamo a fare il tampone, ok? Poi se ti fanno se arrivano i sintomi che necessitano che la persona effettivamente malata debba fare il tampone, glielo fanno, ma tu che sei familiare, che vivi magari nella stessa casa, il tampone non lo ricevi. Con tutta questa serie di presupposti, un'app che fondamentalmente si basa sul primo principio per cui è l'operatore sanitario che accerta la tua positività, che sostanzialmente ti marchia come positivo, e quindi poi l'incrocio dei dati dovrebbe permettere di avvisare quelli che ti si sono stati a raggio d'azione: guarda che hai sfiorato un positivo, vatti a controllare. Con tutta questa serie di presupposti, quest'app a che serve? È questo che stavo dicendo, che poi tra l'altro, e vado a Francesco, mi viene in mente un po' come se si usa negli Stati Uniti, no? Quando, che ne so, uno stupratore viene rimesso in libertà, e gli danno un'abitazione e avvisano tutta quanta il quartiere che praticamente in quella casa lì dentro credo solo per i pedofili, però non vorrei sbagliare. Forse per i pedofili, okay. Forse per i pedofili, sì, i reati sessuali. Perché parli di pedofili e non me nemmeno? Non ho capito questa connessione. Te parlavo di stupratori in realtà, poi loro hanno detto dei pedofili. Ah, ok. E perché parli di stupratori? No, nel senso che a queste app di tracciamento che devono indicare se tu sei infetto, dove ti muovi, come ti muovi, roba del genere, mi danno proprio il senso di lui, attenzione, insomma, non so, tu che ne pensi? Qual è la tua opinione su questa faccenda in generale? dico che c'è stato un periodo molto allegro, sempre mantenendo la calma, ovviamente. Sì, sì, sì, periodo molto allegro. Ma come la calma? 900. C'è Alex che chiede Berserk, Berserk, scusate l'interruzione. No, ma Berserk intende il manga, forse. Certo. Cazzo. Di parolacce. Non l'ho detta, mica, no. In quella lingua non è una parolaccia. Comunque, mi ricordo un pochino quello che accadde in un periodo molto allegro del Novecento, tra gli anni 20, 30, 40, in cui furono emesse delle leggi e mettevano una bella croce, una bella stella di Davide con scritto Juden, ebreo, sta roba qua. Vabbè, lo fanno pure oggi, comunque. Sì, se lo fanno pure oggi. No, però diciamo oggi adesso non lo fanno le autorità, all'epoca su base volontaria, sì, base volontaria questa adesso. Però cioè, ora sempre su base volontaria, però non lo fanno le autorità, però essendo questa comunque un'app, sì, è stata affidata a dei privati, la Bending Spoons di Milano, sta startup, non so se è una sta società, io non l'ho mai sentito, voi siete sicuramente, voi due informatici, mi rivolgo a voi, sicuramente la conoscevate, io no. Sì, sì, è titolata e quotata, ma in altri ambiti, ecco, mettiamola così. Fanno app ludiche fondamentalmente. Precisamente. Ah. Sì, sì, confermo, confermo. Ok. Cioè, okay. È come se quelli di Pokémon Go, Niantic, mettessero, sì, sì, quindi già app ludiche che magari già avevano qualcosa, qualche sistema di tracciamento all'interno delle loro app, praticamente stanno facendo il repurposing di il cosiddetto repurposing di quello che sarebbe il sarebbe refactoring, secondo refactoring. Me, in questo caso, sì. Probabilmente sì. Refactoring proprio vuol dire ancora più no, è probabile radicale, il riutilizzo sostanzialmente di codice già scritto in questo caso, però sai, è da vedere perché okay. Da un punto di vista di cerchiamo di capire una cosa, qui il dubbio su quest'app non è di tipo diciamo di invasione della privacy in tempo reale, cioè io personalmente non mi preoccupo che l'app sappia dove sono stato in tempo reale in questo caso, perché si basa sul principio dell'uso dei sostanzialmente usa il Bluetooth come un radiofaro per creare sostanzialmente dei raggi d'azione esatto, e questi sono dati che teoricamente non vengono diffusi. Il problema è che questi dati devono mettere in relazione due tipi di casistiche: i malati bollati come tali e le persone che non malate possono entrare a contatto con i malati. Il problema qual è? Che nell'accezione che molte entità europee vorrebbero, tutti questi dati devono essere non diciamo conservati solo in locale nel singolo cellulare e poi trasformati in token univoci, ma devono essere trasferiti su un server centralizzato gestito esclusivamente dalle diciamo autorità sanitarie nazionali, in cui ci siano tutti i dati raccolti dall'app e in qualche modo gestibili dalle autorità per farci sopra ovviamente statistica, analisi e tutto quello che può essere utile nell'affrontare l'epidemia. Il problema è che un approccio del genere è fatto in poche settimane e non può essere sicuro per definizione. Il rischio è che questi dati vengano rubati da terzi. Il problema non è che non voglio dire allo Stato dove ero ieri o dove ero questa mattina o quali persone ho incrociato mentre andavo al supermercato. Capiamoci, il problema non è di tracciamento inteso come di dire dove sono in tempo reale, è la vulnerabilità intrinseca del sistema a fronte di un attacco esterno. Ma infatti e guardi, avremmo risolto il problema in una maniera diversa, cioè anche per quanto riguarda proprio diciamo l'aspetto strettamente fisico, no? Noi vediamo per esempio 2 metri di distanza, tutto il discorso, no? legato al Covid. In realtà bastava mettere 10-100 sganassatori agli angoli di ogni strada o davanti alle porte di ogni negozio, attività, e risolvevi il problema. Ma Simone, io da questo punto di vista sono più favorevole all'esercito in strada che al tracciamento passivo, perché l'esercito in strada a fine emergenza lo sai, è palese che cessa perché non trovi più l'esercito in strada. Sì, ma infatti Domaiolo chiede in chat perché un malato dovrebbe dichiararlo sull'applicazione che è per spirito per senso collettivista, per senso, sì, esatto. No, allora il meccanismo funziona così, cerchiamo di riassumerlo: tutti quanti vanno in giro e sono potenzialmente sani, vanno in giro con l'app accesa. Ogni volta che io incrocio un'altra persona si genera un dato univoco che dice che Walter codice 1 ha incrociato Simone codice 2, ok? Poi domani vado a farmi le analisi e viene fuori che sono positivo. Se il lasso di tempo in cui sono stato dichiarato positivo è inferiore a 15 giorni rispetto a quando ho incrociato Simone, Simone viene avvisato con un alert: guarda che hai incrociato un positivo, vatti a fare le analisi. Questo dovrebbe essere il meccanismo tecnico alla base, ok? Nessuno saprà mai chi era l'altro positivo, cioè non c'è cioè, questo l'abbiamo capito. Sì, esatto. Perché io dovrei scrivere sull'app che... Cioè, nel senso, perché non lo fai tu, a quel punto non lo fai tu. Ma non è chi lo fa tu, lo fa il sanitario, lo fa il giudice. Allora, il principio di funzionamento... Ha detto devono essere anonimi, niente GPS. Aspetta, un attimo, Lobby. L'uso dell'app è su base volontaria al momento e su questo non ci piove. E già questo l'essere compromette la sensatezza della cosa, no? L'essere marcati come positivi è un'azione che può e deve fare solo il sanitario, cioè il medico che ti diagnostica senza ombra di dubbio la malattia, cioè deve il meccanismo, il bando prevede questo meccanismo di funzionamento. Il sanitario che accerta la tua positività deve accedere a un sistema, ad un backend in cui preme un pulsante e dice Walter Sbano è positivo. Nel database Walter Sbano corrisponderà al codice 1, il sistema verificherà tutti i token che sono stati a contatto con codice 1 nei 15 giorni passati e li avviserà con un messaggio che dice: vabbè, sei entrato a contatto con un malato. Però io penso che con un virus che ha l'80% di asintomatici, una cosa del genere non serve assolutamente a niente. Ma infatti non serve. Cioè, ma questo è poco. Ma sai, cioè, sai anche perché. Questo non è, è il lavoro che fanno i sanitari normalmente quando ti chiedono tu con chi sei stato a contatto negli ultimi 15 giorni. Di chi sei fio? Esatto. Ma di chi sei fio? Ragazzi, io vedo un altro motivo per cui e serve per eliminare menzogne, dimenticanze, distrazioni. Allora, quindi va a contattare persone ragazzi, che magari tu non conosci, l'Aicoce si è stata a parlare, tu non conosci. Esatto. Allora, un altro dato emblematico. L'app funziona con l'utilizzo, abbiamo detto, sostanzialmente dell'incrocio dei raggi d'azione dei Bluetooth, ok? Che è abbastanza ampio. Io pensavo di raggi gamma addirittura. Il Bluetooth quello a basso consumo, ha un raggio d'azione di diverse decine di metri e non lo puoi stimare. Questo che significa? Significa che banalmente, se il mio vicino di casa ha l'app attiva e il mio vicino di casa magari fra un mese diventa positivo, io ho incrociato tutti i giorni il mio vicino perché il mio Bluetooth l'ha incrociato, ma Walter non la vede da un mese. Comunque Roberto è d'accordo col metodo nordcoreano che dice che funziona al 100%, l'abbiamo ribadito diverse volte Roberto, noi siamo dei falsi detrattori della Nord Corea, in realtà. Allora, anche quello russo sembrava funzionare allo stesso modo, ma ultimamente ci stanno smentendo perché comunque Walter, quella è colpa di internet, perché in realtà fino a quando il metodo russo si basava appena qualcuno dice che abbiamo dei casi lo portiamo in galera, va bene. Quando la gente ha cominciato a fare dell'azione anonima su internet, ma infatti è internet che ha complicato la vita a tutti, esatto. Perché comunque fino a che c'era la propaganda di regime vecchio stampo era così, come dicevano loro, Russia non c'è, certo, c'è dei raffreddori. Ma perché, comunque, ma perché questo? Perché comunque i russi sono geneticamente meglio di più, capito? Cioè, nel senso. Allora, il problema fondamentale poi di questa applicazione è che tu l'applicazione devi far girare su un dispositivo, quindi devi per forza avere un dispositivo. Magari noi ce l'abbiamo tutti, però i genitori, gente di una certa età, assolutamente. Ma infatti quindi questo... per forza costringerli a comprare comunque un cellulare per essersi per fare praticamente da faro per vedere se guarda io ho fatto una lunga discussione anche su questo con altre persone questa mattina. Mia madre ha 82 anni, ha stento a usare un telefono con i tasti. Se io le dessi in mano uno smartphone non sarebbe in grado neanche di fare una telefonata al 112. Uno dirà: ma non è un po', perché l'obiezione è stata: ma che ti frega, l'importante è che se lo porta appresso, non lo deve usare. E metti che ha un problema e deve telefonare e non è capace, non ci riesce, io le devo mettere in mano per i capricci di qualcuno, per una visione assolutamente entusiastica di un'app, le dovrei mettere in mano un dispositivo che non è in grado di usare, perché così loro sono tranquilli, capito come stiamo? vabbè, però non ti agitare, devi stare calmo pure lui, no, un po' mi fa incazzare tutto come questo. Ha promesso Francesco, devi anche tu mantenere questa aplomb, insomma, tipica, non dare soddisfazione alla rabbia, si stai dando sopravvento di te, esatto. Scusa, ma perché lui ha preso la pasticchina di è il lato scuro, allora devo stare calmo io. Pasticchina, semplice forza di volontà, e io non ce l'ho. È il lato scuro che si impadronisce di te, capisci? Quindi vabbè, ma comunque di questa cosa dell'app molto interessante, appunto ne sentiremo parlare anche subito dopo su Data Nightmare o quando volete, scaricandovi chiaramente la puntata. Però ci sono tanti argomenti, ragazzi, sono argomenti importantissimi. In questo momento scusa, posso usare un tema d'alleggerimento al volo? Siamo arrivati a 3068 follower, stiamo correndo, ragazzi. Tanto non ci ascoltano, quindi cioè, se... vabbè, tanto è che te frega, è come Confindustria che vuole ricominciare a fabbricare macchine, non importa se poi la gente se le compra, però devono fabbricarle. Comunque in questo momento di grande invisibilità, diciamo così, o di maggiore difficoltà di visibilità, in questa epoca in cui c'era questa smania, no? Politica dell'essere sempre sul pezzo, sempre al centro dell'attenzione, no? Dove si voleva essere quasi il fulcro, quando c'erano quelli che dicevano datemi pieni poteri, poi dopo, quando un po' di potere in più ce l'ha qualcun altro, ma quello è il mojito, a smania, stanno lì e incominciano pieni poteri. Che succede? Succede che la gente un po' smania, no? Stanno lì un po' smaniano. Però che coglioni, sta dentro casa, Dio mo. E allora che succede? Che i governatori del nord, i grandi governatori del nord, soprattutto di quella grande regione meravigliosa che è la Lombardia, che insomma non ci ha avuto per niente il problema, insomma, del coronavirus, non ha assolutamente avuto nessun tipo di problema sanitario, non ci ha avuto neanche delle difficoltà organizzative, non hanno neanche costruito un gigantesco ospedale Covid che poi alla fine fondamentalmente non ha funzionato, no? È tutto a posto, la Lombardia è comunque il cuore pulsante del nostro paese. Però e allora loro che fanno fa? La Lombardia è riuscita a trovare posto la gente che non stava tanto bene, però stava recuperando, per liberare i posti, diciamo, letto negli ospedali, mandandoli nelle case di riposo. Quindi esatto. Molto geniale. Insomma, questa grande regione, meravigliosa regione, insomma, che sempre ci dimostra, insomma, la buona volontà e soprattutto il senso di collettivismo, di comunità generale, vanno riaprì subito, perché chi c'è Sadia? Ci stanno quelli che guardano i sghei, i denari, capito? Stanno lì e dicono, oh cazzo, qui tocca fare i denari, ragazzi, così siamo fermi, cazzo. E allora bisogna aprire queste cazzo di regioni, no? Bisogna subito. E allora giustamente poi lo dice uno, lo dicono pure gli altri stronzi che stanno intorno, no? Perché chiaramente dice, no, sì, apriamo tutto. Giustamente poi il governo dice, buoni tutti, perché insomma quella organizzazione criminale, no, che a primo un cazzo si dice. Esatto. Quell'organizzazione criminale che viene definita da Trump in maniera tale, cioè l'OMS dice no raga, oh, state buoni, perché ancora insomma ci sono delle criticità, diciamo, perché noi possiamo anche mettere tutti gli ausili, tutti i sistemi di sicurezza, tutti i protocolli che vogliamo, però insomma stiamo a combattere contro un qualcosa che c'ha praticamente l'infettività istantanea, praticamente, cioè solo se lo guardi, in pratica, no? Quindi insomma, cosa pensate voi di questa questione relativa all'apertura e soprattutto al nostro eroe, il grande eroe, colui che ci guarda con i lanciafiamme, che dice sì, voi aprite le regioni e io chiudo la mia, non ve faccio entrare manco se mi guardate in faccia. È fantastico. Si mormora che De Luca abbia soldato 13 milioni di messicani per venire a fare un muro lungo tutta la campagna. Sto dicendo questo anche io. Esatto, che poi vabbè. Alto fino al soffitto. Esatto. Allora, che ne pensate? Dai, partiamo da Francesco, va, che è quello che ha parlato di meno fino adesso, e poi Buccio. Poi Marco, parlando di meno per un motivo specifico, che non c'è un cazzo da dire, però vabbè, se proprio devo dire qualcosa è che al di là degli interessi, allora il fatto che Trump, da genio qual è, decide di tagliare i fondi all'OMS perché gli sta sul cazzo che non gli può far riaprire, a parte questo, vabbè, Trump lo conosciamo com'è. Il fatto che comunque dell'ottima gestione della Lombardia, della gestione dell'emergenza Covid, che tra l'altro è stato pure davvero, cioè, c'è l'ultimo video del canale Il Terzo Segreto di Satira, che loro di solito sono abbastanza non leggeri, però ci vanno, cioè comunque in punta di fioretto. Sì, sì. Quello di Fioretta, però ci vanno abbastanza mirati alle cose. Stavolta sono stato davvero, ma di una pesantezza proprio, ci sono andate proprio giù, proprio col granito, su parodiando proprio molto. Beh, stiamo ancora alle premesse, perché quello che verrà fuori io non lo voglio neanche immaginare. Neanche io. No, neanche io. Sto fatto che comunque di voler in qualche modo mettere in secondo piano ciò che degli scienziati che stanno studiando sta cosa, che dice: vedete che è meglio che siamo un pochino più chiusi, ci sono tutti questi modelli che stiamo studiando in base a sta cosa, per cui il distanziamento sociale eccetera eccetera, queste cose qua ora ci servono per non peggiorare la situazione, sarebbe inutile aprire adesso perché andrebbero a vanificarsi tutte le misure che abbiamo adesso in atto. Però io, secondo me, di default il principio di base per cui è guidato anche dalla gente che esce fuori, che dice vabbè a me un mese succede, c'è una distorsione cognitiva che si chiama, ora entro nel tecnico, scusate ragazzi, però il mio intento è divulgativo, quindi cercherò di spiegarvi, che si chiama pensiero illusorio. Pensiero illusorio è questo classico cosa: vabbè, sta succedendo tutto questo problema, ma tanto a me non succede, vabbè succede questa cosa, ma tanto a me, vabbè tanto a andrà tutto bene, sto fatto che succede agli altri ma a me no. Però appunto è una distorsione cognitiva, nel senso è una semplificazione della realtà per cercare in qualche modo di non sovraccaricare il nostro ragionamento, ed è alla base di tutto, secondo me è la base umana, diciamo psicologica, di tutte queste, di Trump che dice vabbè riapriamo, delle regioni, cioè della Lombardia, di tutti i riccans vogliono riaprire. Sì, sì, dai, comunque, sono quelli, ne frega un cazzo se l'operaio si ammala, sì, o no, io lo sostituiscono, cioè, tanto per essere precisi, in realtà su Trump prima ha detto ma sì, riapriamo, ho deciso con la mia testa, perché la mia testa mi ha detto che bisogna riaprire, ho deciso io con la mia testa, sentendo gli atti, ma decidendolo io che dobbiamo riaprire. Poi ha cambiato idea, perché forse non è il caso proprio di andare così veloci, sai, cioè 4.000 morti in una notte, cioè, potremmo forse non essere veramente sul picco massimo, magari mi sono sbagliato, e poi ha appoggiato i movimenti anti-lockdown subito dopo, quindi è una persona, diciamo, no vabbè, non ma è loro, cioè, in America stanno veramente messi male, raga, cioè io penso, e c'è il brutto che questi qua sospenderanno pure le presidenziali, perché c'è pure sta possibilità qua, chiaramente, perché insomma, a meno che non si trovano un sistema del voto da casa o cose del genere, cioè, qui stanno veramente male. Comunque 809 malati, secondo me lo mandano a visitare le case di riposo del Pio Albergo Trivulzio. Senta, ma perché non va a visitare il Pio Albergo Trivulzio? Hanno bisogno di lei. Comunque il nuovo bilancio è di 809 malati in più rispetto a ieri, quindi ma morti e guariti? Cioè, allora, morti 475. Molti meno di ieri. Sì, sì. No, vabbè, diciamo che insomma, una china oramai si è un po' presa, diciamo, da sto punto. Sì, l'abbiamo scavallato, mettiamola così. Sì, non la prenderei, insomma, sempre con grano sale, molle. Però vabbè, insomma, è chiaro che, raga, dietro ci stanno i soldoni, insomma, perché comunque. Ma sai che neanche tanto, secondo me, perché in realtà, secondo me, cioè, un po' sì, No, io vedo che le grandissime aziende, evitiamo di dire quella per cui lavoro io in questo momento, la stanno prendendo. Vabbè, noi facciamo servizi, quindi è un po' diverso. Qui parlavo di fabbriche, di quelli, cioè, sì, noi, no, considera chi costruisce macchine, chi insomma, vabbè, cioè, quindi proprio le fabbriche, no, quelle vere. No, ma senso, proprio il problema è quello. Cioè, tra l'altro, se andiamo un attimo indietro, i primi a sospendere la produzione, a utilizzare subito gli ammortizzatori sociali, sono stati quelli di Fiat. Tra l'altro, neanche nelle fabbriche, cioè anche Termini Merese, anche quella che c'è qui in Basilicata. Vabbè, cioè, ma diciamo, allora è facile, Melfi. è meglio, loro è facile. Loro si sono 40 avanti. Anni che vanno avanti con le cassette, cioè, sanno perfettamente. Fermi. Melfi negli ultimi anni anche no, perché quando lui diceva in generale Fiat, comunque negli ultimi 50 anni ha campato su quello, poi fondamentalmente. Vabbè, ragazzi, ma scusate, senza arrivare a quello, Ford in Inghilterra e negli Stati Uniti ha sospeso la produzione prima che ci fossero richieste dallo Stato. Non so se voi avete visto, Fiat ha avuto un calo delle vendite su base nazionale dell'85%. È quello che poi mi fa riflettere sul fatto, sì, ok, ma correre a ricominciare a fabbricare le macchine quando in realtà c'è già una mole di invenduto che non saprai come smaltire, a che giova? Senti, la mia persona, in chat ci dicono che in Veneto si circola molto di più. Stanno già riaprendo praticamente, cioè, nel senso, in Veneto. Ragazzi, il discorso qual è? Io volevo dire la mia su questo, poi partendo dal discorso di Trump, perché Trump ovviamente ogni giorno, in base a quello che sono probabilmente le curve del gradimento politico, si esprime diversamente, quindi e poi è anche un po' bipolare, lo sappiamo tutti. Sì, no, ma secondo me sì. Cioè, però io sono d'accordo col fatto che questi politici oggi ragionano sui flussi di interesse, di quello che cazzo te pare a te, no? Sono assolutamente d'accordo. Però secondo me, raga, qui stanno parlate uno che non ci sta proprio con la testa, cioè, ma quello l'abbiamo sempre detto prima. Ma guarda che è una cosa abbastanza importante il fatto che questo sta a governare l'azione più importante del mondo, che ieri ti dichiara che non danno più il finanziamento all'OMS perché secondo loro praticamente hanno trattato male gli Stati Uniti. Che cazzo vuol dire? Che t'ho guardato male? Che t'ho fatto? T'ho sciupato il quaderno? Che cazzo dici? Allora, cioè? Trump, ti ricordi che ha sfiorato un impeachment? Trump ha sfiorato un impeachment perché sostanzialmente ha cercato di ottenere informazioni, diciamo, un'indagine non ufficiale verso un avversario politico da un capo di stato estero. Non so, partiamo da questo presupposto. Quindi, partendo da questo presupposto e sapendo quindi chi è Trump, la cosa assolutamente che mi fa raccapricciare è che Trump ora sta spingendo i servizi segreti americani ad indagare su qualcosa che è assolutamente poco verosimile. Poi magari qualcosa verrà fuori, però ci dovremmo domandare. Ci hanno fatto due guerre sul del Golfo. Su cose che non esistevano, quindi Trump adesso che quale input ha dato? Bisogna indagare sulla Cina fino a quando non si scopra che il virus è fuggito, è scappato al biocontenimento di un laboratorio e che quindi la genesi naturale di questo virus non è la verità. Ci stanno arrestando. Cioè, attenzione, mi interrompo perché qui c'è una sirena spiegata. Lo sai che non sento un'ambulanza? Non è passata sotto casa, quindi niente. L'importante è che non si è fermata sotto casa. I cani gradiscono moltissimo. Comunque, insomma, ragazzi, con il preambolo di Trump, quello che vorrei io cercare di dire, ed è chiaro che poi è una questione complicatissima, però secondo me siamo in una situazione senza precedenti in cui la politica non si può arrogare il diritto di prendere decisioni perché non ha le competenze per farlo. In Italia, negli Stati Uniti, nel resto del mondo, deve essere la scienza in questo caso a dire sì, possiamo riaprire, anche perché la scienza non ha nessun tornaconto a dirti sì prima del tempo. I presidenti, i politici di tornaconti per far contente le lobby di turno ce n'hanno tantissimi, a cominciare da ovviamente l'operoso Nord-Est che vuole ripartire per motivi ovviamente industriali. Certi politici italiani, anche non soltanto quelli dell'opposizione, ma io ci vedo in mezzo anche, per dirne uno, Renzi, che è chiaro che spinge in certe posizioni perché è un alfiere di Confindustria, è evidente in certi termini. A proposito di Renzi, ma quanto sei imporchettato negli ultimi giorni, nelle ultime settimane? Penso meno di me. Non so del tutto d'accordo su questo, cioè, nel senso, secondo me, per esempio, quello che ha detto Conte, no, nel senso, è la scienza che comunque fa da supporto e da consiglio, ma la politica comunque prende decisioni sulla base di tutto un insieme di fattori, e su questo è una politica responsabile, la politica deve fare la politica, cioè, nel senso, poi la scienza deve fare la scienza, perché comunque la scienza vede solo un quadro, un aspetto della situazione, quindi la politica deve prendere quello che la scienza gli dice e cercare di mediarlo nell'insieme di un fattore più globale, perché purtroppo è così, cioè, la scienza temo che la politica politica, temo che la politica si prenderebbe quel meme che oggi chiedeva in chat lobby ad un altro utente come un'opinione e vi darebbe il consiglio di mettersela sapete dove. Perché sostanzialmente alla politica... Questo dipende dalle realtà, perché per esempio in Italia comunque... In parte lo stiamo già vedendo, appena sì. Si è allentata un pochino la morsa dei contagi, già vorrebbero, come dire, ripartire a razzo fregandosene del fatto che il virus è ancora esattamente lì dove era ieri, eh? Sì, vabbè, però cioè, tu vai a vedere comunque a livello globale, in Italia il governo comunque continua a seguire una linea, ha detto, cioè nel senso nessuno ha detto che c'è stata l'autorizzazione o si danno già indicazioni di riaprire tutto. Sono due governatori di due regioni che hanno deciso di fare questo qua, il suo discorso per propaganda, perché poi è propaganda. Quindi il problema della politica è chiaro che poi la politica poi è politica e quindi c'è magari quel governo che funziona più in maniera sensata e quel governo che funziona in maniera meno sensata. Cioè, se volevamo confrontare Conte con Bolsonaro, è chiaro che il discorso non c'entra più niente né la scienza né la politica né culo. Niente. Esatto. Cioè lì fai diventare Conte un grandissimo statista se lo paragoni a Bolsonaro, capisci? Che, ma io guarda, alla fine certo. Simone, pure Toni Gioia paragonato a Toni Bolsonaro. Gioia, grande, cioè... grande Toni Gioia. Toni Gioia momenti emozionanti, insomma. E invece io ho notato una cosa molto interessante, ho notato, in realtà non è che l'ho notato io, insomma un dato di fatto, che insomma per la prima volta dopo tantissimo tempo, e questo è un po' come due cugini che si riguardano un po' così, insomma cercando di allentare un po' la tensione, si avvicinano, intanto si fanno pure un sorrisino, ti ricordi quando eravamo cugini che si divertivamo? Non c'è cosa più divina? No. Esatto, no. Cioè praticamente a un certo punto Macron... Che, insomma, Macron, sì. È il presidente francese, quindi sono quelli che vengono detti i nostri cugini. Hanno detto, dice che fondamentalmente. Ma tu a questo lo devi, che schifo! Che schifo, esatto. Prende insomma, sostanzialmente la posizione a favore, non a favore dell'Italia, ma insomma, viene, diciamo, è compatibile con la nostra posizione. E tra l'altro, ha detto le stesse cose che ha detto Conte un par di settimane fa. Cioè, questo è il momento in cui l'Unione Europea deve dimostrare se esiste o non esiste. Non se vale o se non vale, ma se esiste o non esiste, se è un progetto politico o se è soltanto un grosso mercatone dove si fanno interscambi senza frontiera. E questo è, secondo me, è il momento, purtroppo, l'abbiamo detto da europeisti, cioè perlomeno io, insomma, devo dire che è il momento della verità. E secondo me l'Unione Europea, proprio nell'ultimo sgocciolo, in qualche maniera, si è anche un po' resa conto di questo limite, no? Di questo momento, quasi canto del cigno, e ha detto, vabbè, no, chiediamo scusa all'Italia, incominciamo la discussione sugli Eurobond. L'Italia l'ha fatta da padrone. Esatto, sui Corona Bond. Chiaramente... Questa cosa rappresenterebbe una vittoria e una sconfitta, cioè nel senso rappresenterebbe una vittoria per un certo tipo di area politica che comunque è andata a lottare per questo tipo di discorso, rappresenterebbe una sconfitta per coloro che comunque alla fine hanno visto un successo da parte delle persone che speravano che non tenessero successo. Allora che cosa, fondamentalmente, che cosa è successo? È successo che mentre che in Italia alcuni criticano il discorso del fondo salva stati perché che schifo, no, non lo voglio. Siete collusi con Europa merda e via dicendo. Dall'altra parte, quando si inizia la discussione sui Corona Bond, tanto il Parlamento Europeo, Lega Nord e Forza Italia votano contro. Che in altri è anche parte del Movimento 5 Stelle, non dimentichiamoli. Anche credo tre persone, gli altri si sono astenuti, se non ricordo male. 10 astenuti, 3 votato contro, in altro okay, non mi ricordo. Questo in altre situazioni... Vabbè, il Movimento 5 Stelle è una realtà oramai completamente allo sbando, cioè nel senso che la metà di loro vorrebbero andare col centrodestra e cioè, sì, dal primo giorno che è così, sì, esatto, che è palese, insomma, che c'è il Movimento 5 Stelle di Fico, il Movimento 5 Stelle di Di Maio. Esatto, che sono esatto, ma questa era una cosa che si sapeva, loro avendo cavalcato tutte quante le demagogie, chiaramente c'avevano questa doppia anima, quella profondamente di destra e quella un po' più, diciamo, incline ad essere un atteggiamento di sinistra. Però comunque tu, nel momento in cui si votano questi Corona Bond, che dovevano essere comunque, tu vedi delle realtà italiane stesse che dovrebbero comunque appoggiare a priori, indipendentemente dalla posizione, perché poi dopo magari c'è il tempo per discutere dopo, votano contro. Che una volta in altre condizioni questa cosa sarebbe stata quasi un tradimento, insomma. Il problema è che la gente non lo saprà mai questa cosa. Allora a me la cosa che mi fa incazzare, poi qui andate voi, è che bisognerebbe andarci dopo a casa per casa, proprio casa. Lo faceva Riccardo. Salvini? No, no. Tutti quanti ci dicono: ah, ma lo sapete che hanno fatto ste pezzi di merda? Perché questo è un po' la cosa che a me mi fa incazzare. Che alla fine la gente non lo saprà mai. E questo è veramente un momento che il berserk ci sta tutto. Mi dispiace. Pozzano che... vai. L'incazzatore automatico. Vai, parti tu, che sei Cesare, Carmine, che... Sì, allora, in realtà la questione è addirittura più divertente di come ce la siamo raccontata fino ad adesso. Ora, noi siamo abituati al fatto che in Europa solitamente quando un paese grande ha un problema, le forze politiche che hanno una rappresentanza all'Europarlamento più o meno si accordano, trovano un punto comune e portano avanti quella che può essere una causa comune. Noi siamo andati in ordine sparso. Abbiamo fatto una roba meravigliosa. Allora, innanzitutto noi avevamo due offerte sul tavolo. Quella dei Corona Bond, che sostanzialmente è la condivisione del debito a livello europeo, gli Euro Bond, quelli che sono la condivisione del debito a livello europeo, con uno scopo preciso, che era quello del finanziamento della sanità, dell'affrontare l'emergenza coronavirus, più quelli che vengono chiamati Restoration Bond, che sono un'altra opzione. Recovery bond, scusatemi. Restoration, come è venuto a Final Fantasy, deve essere stato quello. Stavo dicendo che tra l'altro è un'offerta per metà italiana, è un'idea per metà italiana. È anche francese, francese. Non li ho capiti bene i recovery bond in realtà. Sostanzialmente dicono questa cosa viene finanziata non dal debito pubblico europeo nel suo complesso, ma viene finanziata da un fondo europeo, o meglio dal bilancio, viene inserita nel bilancio europeo e viene finanziata dai singoli stati non facendo debito, ma in vari modi. Una delle opzioni sul tavolo era quella che bilancio una parte... creativo, come diceva Berlusconi. Sì. No, in realtà pare che una delle ipotesi fosse quella, una delle imposte dirette stato per stato, per esempio a noi l'IVA, una parte viene destinata a finanziare questo strumento. Noi siamo andati esattamente in ordine sparso, cioè abbiamo avuto una parte che ha votato per il MES, una parte che ha votato per il Restoration Bond, una parte che ha votato per i Corona Bond e o Euro Bond. Non ci si è capito un cazzo. Ovviamente la cosa divertente è che a votare contro gli Euro Bond, quelli finanziati dal debito pubblico condiviso, è stata proprio la Lega. Io, se volete, vi faccio lo schemino, perché prima ne stavamo parlando. In pratica noi siamo andati in questa più o meno in questa maniera. In pratica la Lega ha votato sia contro il Restoration, o meglio si è astenuta, prima ha dichiarato voto contrario, poi in realtà si è astenuta, ha votato contro il Corona / Eurobond, il Movimento 5 Stelle ha votato contro il Restoration Bond a favore degli Eurobond ma contro il MES, il PD ha votato, si è astenuto sul MES, ha votato a favore per i Corona Bond e il Restoration Bond. Guarda, secondo me noi qui intanto paghiamo un nostro errore strategico di fondo, perché un po' tutti i politici, secondo me, in Italia non hanno mai dato particolare peso ai nostri rappresentanti in Europa, e quindi hanno sempre mandato delle figure, non dico di rincalzo, però insomma... tipo Salvini. Vabbè, lui però c'è da dire che non essendoci mai andato non ha potuto fare danni. Vabbè, ora qual è il discorso? Sì, ma poi il risultato finale, al di là di quello che hanno votato gli italiani, no? Vabbè, allora chiariamo una cosa. Quello che è successo al Parlamento europeo, cioè non funziona come il Parlamento europeo, che se viene votato a maggioranza diventa legge. È una questione un po' diversa. Sono sostanzialmente delle linee di indirizzo, non è una roba obbligatoria. Sì. Quindi c'erano più opzioni sul tavolo. Quella sui Corona Bond / Euro Bond basati sul debito condiviso era una proposta dei Verdi, e adesso in pratica sono stati approvati a maggioranza variabile, perché in realtà anche altri paesi sono andati non come noi ma più o meno in ordine sparso, e ora vediamo come il Parlamento europeo porterà avanti l'idea di applicazione di questi strumenti. Però tanto lì la Franza, soprattutto come li finanziamo, la signorina, come si chiama, Astrid von der Leyen ha detto che bisogna chiedere scusa all'Italia, cioè così. Sì, sì. Siamo... No, vabbè, ha fatto delle figure di Popò. Se sono girati tutti hanno fatto. Ma io con quelle scuse mi ci pulisco il cu. Cominciate a darci i soldi. Beh, no, in realtà una cosa la dobbiamo dire. In realtà l'Europa tramite la BCE i soldi ce li sta dando. Perché comunque da quando è iniziato sto casino che... Ci sta la BCE tramite una versione potenziata del quantitative easing sta continuando a comprare i nostri titoli. Vabbè, di Stato ancora come avrebbe fatto Draghi un giorno sì e l'altro pure, insomma. Sì, sì, no, tranquillo. Ci dicono in chat Draghi... Salvini ancora non se l'è preso il corona. Aspetto con ansia, non sono, non sono cose belle da dire in chat. Salvini lo bacia corona, bacia il corona. Salvini è come... Salvini è il corona. Esatto, è come Jack Norris. Più che altro è il corona bond che contrae Salvini. Non il bond, il virus. Il corona che contrae Salvini. Ormai Bond lo sto infilando dappertutto da ieri sera, scusate. Cognome Bond. Bond. James Bond, James Bond. Tra l'altro io da grande fan Bond, James Bond. Sento... Insomma, vabbè, begli infami, diciamo così la verità, no? Io guarda, sono... io in questa fase, allora, la votazione di ieri ovviamente sì, era propedeutica, è giovedì che si faranno i conti veri. Però la mia paura è che non è un fatto tanto di infamità quanto proprio di incapacità. Cioè lì hanno votato a caso perché non conoscevano il tema, secondo me. Ecco, la giustificazione termini. L'avete letta? Perché poi l'hanno data. No. Cioè quello che hanno detto, no, abbiamo votato contro perché comunque gli euro barra corona bond prevedono la delle condizionalità che sostanzialmente sono quelle. E i soldi vanno restituiti, penso e un poi po', no, cioè a parte quello che io lo davo per scontato, ma in realtà ma perché se c'era Salvini al governo con i pieni poteri andava dell'Europa, si faceva dai sordi a e noi scusate, avete sentito che ma loro sono abituati a non restituire i soldi, quindi no, ma lui si è giustificato dicendo che lui finanzierebbe tutte le operazioni non con i fondi europei ma emettendo dei non specificati bond speciali chiamati Orgoglio Italiano finanziati completamente internamente. Con che soldi? No, non hai capito, il suo meccanismo è gravare italiano, sulle tasche del contribuente. Salvini non vuole farsi prestare i soldi che deve restituire, vuole vessare gli italiani, quelli poveri, perché quelli ricchi guai a toccarli. Che fai? Una flat tax? Sì, perché ovviamente così in proporzione il ricco paga di meno. Che fai? Una patrimoniale? No, perché così il ricco paga di più. E questo Salvini, Vabbè, cioè... un aggiornamento dal balcone, così. Guarda, il balcone... Giusto per spezzare un secondo. Sì, a parte l'improvvisa diciamo ambulanza, non so, forse dell'ordine, non c'è un granché. I vicini se ne sono andati dal terrazzo, il mini market in questo momento è vuoto, si sono avvicendate alcune persone con cani abbandonati all'esterno che sono stati rimproverati perché forse mangiavano la cacca, non si è ben capito, ma a parte questo adesso la situazione è tranquilla, non ci sono azioni rilevanti. Se dovesse succedere vi richiederò la linea e volo studio. Abbiamo qualche notizia stupida, così giusto per farsi due risate. Sì, sì, l'avete visto, c'era una cosa scandalosa, l'avete visto tutta quella gente... Tutti quei runner che odiamo, tutti sul ponte di Messina, nonostante i divieti. L'avete visto, ragazzi? Il ponte sullo stretto. No, che roba, una roba scandalosa, ragazzi. Infatti, infatti, qualcuno poi ha scritto giustamente: ma no, è impossibile, tutta sta gente. Sarà stata una foto vecchia, forse. Ma infatti, è di prima che il ponte crollasse. Vabbè, ragazzi. Siamo sempre in quelle situazioni in cui non sai se sperare se queste cose sono vere perché ti fanno ridere oppure che siano false. Cioè, oggi è difficile. Oggi è difficile vedere. Guarda, questa poteva essere vera perché. Insomma, era così, borderline, ma non troppo. Comunque, io sono orgoglioso del fatto che noi siamo l'unica trasmissione della radiofonia che racconta i meme. È vero. Esatto. E riusciamo a farli capire anche. È uno sforzo di immaginazione che richiediamo ai nostri ascoltatori. Perché i nostri ascoltatori hanno un'intelligenza vivace, diceva la maestra. Sì. Peccato che non si applicano. Però non si applicano, questo è poco ma sicuro. Vabbè, ragazzi, vabbè, che dobbiamo fare? Pure la Meloni che ha detto, ma in realtà è quella parziale ritiro, quel tentativo di... ha detto, no, non abbiamo... Cosa ha detto di preciso? Non mi ricordo, l'hai postato oggi su Morti Pistelli. Ha detto, l'unica cosa imprecisa che abbiamo detto è che il MES era stato firmato. Ah, ok. Assolutamente. Giorgia è stato esattamente così. Però Giorgia non Giorgia, comunque quelli di Fratelli d'Italia hanno votato favorevolmente ai Corona Bond, cioè sono stati gli unici, quei 4-5 sì, mi sono scelto. Poi mi spiegate per quale ragione, perché veramente qui stiamo a parlare proprio di... Diciamo che scusa, nei Fratelli d'Italia ci sono comunque politici di vecchia data, perché c'è tutta, diciamo, la vecchia guardia missina, quindi c'è gente che comunque ha una memoria storica che quantomeno gli aiuta a scegliere l'opportunità meno pericolosa per loro, ecco, mettiamola così. Io non capisco questa ossessione. Giorgia Meloni le mette delle foto che non so lei, cioè, perlomeno non so lei adesso. Lei è sempre photoshoppatissima perché c'ha due occhiaie che pare Smigol, ma non è, magari non è colpa sua, solo che evidentemente non riesce ad affrontare la realtà e quindi si fa fare i ritocchini su Photoshop. Quello poi è chiaro che ho visto è sempre sti manifesti di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, però c'è Margot Robbie, praticamente palesemente Margot Robbie. Cioè, è abbastanza evidente che è un'altra persona. No, ma anche laddove è lei è comunque iper photoshoppata, cioè, sì, no, ma poi ricordiamo, cioè, voglio dire, soprattutto noi di Roma ce la ricordiamo quando era una giovane attivista politica di destra, draghetta. E non era così caruccetta manco da ragazzina, quindi inutile che ci provi, lo sappiamo. Comunque sui romanzi fantasy, comunque sul nostro gruppo Telegram, sì, e quando c'aveva anche la chat, quando stava su IRC, vi potrei raccontare, sì, draghetta, come si chiama, Draghetta 78, non me lo ricordo, però vabbè, su IRC se ne possono raccontare. Vabbè, di faccio come mentale, mo vegli del canale. Se avessi saputo che avremmo detto queste cose, ci avresti censurato. Se avrebbi saputo. Comunque, Michela, sul nostro gruppo Telegram MDB The Original One, che insomma andate su Telegram, ci scrivete MDB The Originalone. Lo vedo come sempre. Come insomma in chat presto apparirà il link. Giustamente, Michela De Paola ci sbam una botta di quelle che vorrei il commento di Marco Gualdi, che è importante, perché J.J. Abrams più Stephen King uguale. No, più HBO uguale The Shining la serie. Gualdi, dai, Gualdi, dai. Ragazzi, guarda, non vedo l'ora di vederla, perché sicuramente sarà bellissima. Immagino Let's Flare che escono fuori dai tricicli. Cioè, no, scusate, io ho paura perché HBO e J.J. Abrams è come dire materia antimateria. No, ma evidentemente no. Cioè, è Bad Robot. No, ma secondo me è Bad Robot. È Bad Robot. Però, ragazzi, mo, non voglio spensare arance in favore di nessuno. Però, Stephen King sulla versione di Shining di Kubrick, diciamo, non abbia mai parlato benissimo. No, la dice, la sua versione era un capolavoro. La sua versione faceva cagare in una maniera a spruzzo in diversi colori. Siccome c'è di mezzo Bad Robot e HBO è lui in prima persona, ma io tenderei a essere un filo più ottimista. Cioè, voglio dire, King nelle produzioni, l'unica volta che ha fatto il regista era Who Made Who, ma non mi ricordo come era. Il problema è il ruolo in tutto questo di Abrams, perché se mette le mani nella sceneggiatura può succedere di tutto. È il boss di Bad Robot. Ho capito, però una cosa è se fa il produttore e mi sta bene, un'altra cosa è se fa lo sceneggiatore. Speriamo. No, non me lo vedo a fare lo sceneggiatore, non è il... come ti posso dire, non è in grado, ragazzi. Ma lui non lo sa, qui mette le mani. Ma lo sanno gli altri, però lo fermano. Quando ci stanno i nomi grossi, tendono a confinarlo, insomma, quindi sommato. Ma poi secondo me, cioè, già piano lo faranno spegnere, cioè, spegniti come un tizzone, spegniti. Cosa pensate invece della dichiarazione di Roberto Burioni? Ha detto che lui vorrebbe praticamente il fatto che arrivasse subito un vaccino per due motivi: uno, perché si salverebbero tantissime vite umane, e due, perché almeno vedrebbe tutti gli antivaccinisti chiedere un vaccino in ginocchio. Il solito ottimista, perché già gli antivaccinisti stanno dicendo. No, vabbè, però c'è spaccata. Sì, nel Movimento 5 Stelle già sono divisi, neanche c'è è spaccata vaccino, la comunità. È vero. Cioè, io in questo caso forse potrei. Ma guarda, ovviamente è, come dire, uno dei cavalli di battaglia, quello che ha reso Burioni famoso e tanto amato dal grande pubblico, è lo scontro frontale con un'ironia abbastanza cinica nei confronti dei Novax. Quindi capirai, poter tornare a parlare di Novax per lui è poter tornare a cavalcare una popolarità che si è leggermente incrinata nelle ultime settimane, quando ha preso delle posizioni che hanno poi, diciamo, infastidito alcune persone. Quindi secondo me, cioè, ci sarà da divertirsi. Poi ecco, su cosa succederà non lo so. Vorrei aprire una parentesi. Sapete, a proposito di Movimento 5 Stelle, a proposito di Novax, due notizie che in qualche modo si scontrano tra loro e potrebbero portare risultati molto divertenti. Uno, forse non lo sapete, ma pare che la regione Lazio renderà obbligatorio a settembre il vaccino per l'influenza stagionale per tutti gli over 65 e il personale della sanità. Così, a cazzo. Per un motivo molto pratico, siccome è molto forte il rischio che il Covid torni a imperversare in autunno se non ci sarà nel frattempo una cura, togliere dalle variabili di rischio quella che dovrebbe essere l'influenza stagionale aiuta a, come dire, a tamponare, cioè mi tolgo una precausa subito, evito che ai pronti soccorsi, agli ospedali arrivino malati di influenza stagionale, perché tutte le categorie a rischio le vaccino subito. No, e anche quindi perché tutti i pronti soccorsi sono pieni dei vecchi, delle persone che hanno il raffreddore, diciamoci la verità. E quindi in questo diventa molto divertente scoprire, e lo leggevo poco, in realtà lo leggevo ieri e mi pare, cioè non lo leggevo ieri, l'ho scoperto ieri seguendo Propaganda Live, che Barillari, il mezzo pazzo del, diciamo, perché esponente mezzo? Perché gli vogliamo dare il beneficio del dubbio, lo scemo. Ma tu lo sai che dovremmo chiamarlo collega perché faceva il nostro lavoro? Sì, so tutto. Okay. Fatto sta che Barillari... Cioè faceva Runtime Radio, uno lui. Sì, esatto. Sì. Barillari doveva essere espulso con una votazione dal consiglio dei probiviri dal Movimento 5 Stelle, non è stato più cacciato, non perché abbiano cambiato idea, ma banalmente perché la votazione non c'è stata. Causa coronavirus. E lui cosa ha fatto? Ha pubblicato un tweet in cui ha detto: da questa terribile emergenza dovremmo tutti imparare a non ripetere gli stessi sbagli del passato. Significa valutare gli impatti della nuova tecnologia 5G, la sicurezza e l'efficacia dei vaccini. In due sole parole, medicina 4P. No, e poi c'è un link. E ma le P quali sono? Non lo so, perché c'è puttanate potenti, non lo so, pervasive. Potenti puttanate pervasive e permanenti, non lo so. Bellissimo, guarda. Nuovo podcast questo. Guarda, fatto sta che, insomma, capito? Quindi quando Barillari scoprirà che tutti gli over 65 del Lazio si dovranno vaccinare per l'influenza di stagione, secondo me ci divertiremo. Lui normalmente ha sempre lui è un po' come Internet Explorer, arriva sempre 2-3 giorni dopo dagli altri. Vediamo un po', ci arriverà, ci divertiremo. Seguitelo su Twitter. Ah, io mi vaccino tranquillamente, cioè nel senso già lo faccio, quindi non è che... Sì, però tu lo fai su base volontaria, non sei costretto. Come l'applicazione. Esatto. No, comunque in realtà il fatto della vaccinazione per l'influenza stagionale pare che sia una raccomandazione che ha dato l'OMS, quei famosi cinesi comunisti, come dice Trump, e in più pare che anche altri paesi, insomma non proprio vicinissimi all'OMS, la stiano proponendo. Quello che sentite in sottofondo è mia figlia che bacia mio figlio. Oh, che bello. Ciao Josephine. No, la domanda banale è, scusatemi. La domanda banale è: a settembre avremo già i dati, diciamo, sierologici per fare il vaccino dell'influenza stagionale? Cioè, sapremo già quale sarà? Sì, per come è funzionato anno per anno, non c'è stato un anno in cui non l'abbiamo ingarrato. In realtà il rischio che corri è che di influenza stagionale non ce n'è una sola. Esatto. Quindi magari becchi quella più pervasiva, però. Beh, ma infatti quando io vado a fare il vaccino verso ottobre-novembre, di solito è... Comunque so che i vaccini prendono molti, esatto, prendono molti, è un vaccino pluriceppo, sì, non so come chiamarlo. Sì, polivalente. Pluriceppo. Pluriceppa di cazzo, anche un po', scusate la volgarità, però insomma, alla fine la parolaccia dovevo dire. Mettiamola. Vabbè, ragazzi, sentiamo Francesco, c'hai la notizia, poi anche sentiamo pure Carmine, poi Walter, poi Marco e poi chiudiamo, insomma, perché più o meno ci siamo sfogati, dai. No, non ho notizie, sinceramente, non lo so. Perché qualche cretinata, qualche meme, no? Visto, noi raccontiamo i meme, quindi. Già ho scaricato il mio caricatore, diciamo. Puccio, quindi. Puccio, vai Puccio, tu che se trovi sempre. Niente, io ho beccato assolutamente a caso in diretta De Luca ieri che parlava di gente ha fatto, io ogni volta che cerco di parlare con qualcuno mi viene risposto sono in videoconferenza, e io penso che tra qualche mese assisteremo a delle mutazioni genetiche con politici con la testa a forma di tablet. Sì. momento fantastico. Testa tablet, ma testa al computer. Ma se, io però devo dire una cosa su questa questione di De Luca, che voi sapete che per me è il presidente dell'umanità, no? E poi su questo fatto di aver risposto il sindaco del mondo, esatto, aver risposto immediatamente ai governatori del nord, che poi si chiamano presidenti di regione, non so perché mo sta cosa dei governatori, però vabbè, no, è l'americanata, no, no, però ho trovato una stronzatina, però è ridicola, dopo... diciamo che è ridicola, insomma, sta cosa, ma anche perché noi poi dopo ci abituiamo a utilizzare dei termini che istituzionalmente non hanno nessun significato, però vabbè, comunque andiamo avanti. Però l'unica cosa sulla quale io De Luca non condivido, diciamo così, non è che non condivido, no, non voglio parlare male della campagna, perché sotto casa tua. Però tu praticamente già noi ci abbiamo avuto delle difficoltà con questa questione dei 600 euro dell'INPS, e la campagna ha promesso praticamente un bonus per i cittadini della regione, un ulteriore bonus. Ora, sulla base dell'autocertificazione, cioè tu fai un'autocertificazione e dici: io ho perso quest'anno 15.000 euro per colpa del, e loro ti danno un bonus più, che saranno 200-300 euro, adesso non lo so, adesso non ho quantificato. Ora, una cosa del genere fatta sulla base dell'autocertificazione, magari senza nessuna verifica o roba del genere, ma dove, cioè, ma non si stanno più a per culo, cioè già si sa che cazzo se li pia sti soldi, cioè nel senso è una zozzata. A me queste cose così un po' mi preoccupano, no? Voi che ne pensate? È soltanto un pregiudizio razzista il mio, oppure? Secondo me è assolutamente un pregiudizio razzista, assolutamente. Certo, tu invece lo è, vedi. Ma come tale è basato parzialmente sulla realtà, quindi non so, come dobbiamo vedere dire, davvero cosa attuare male si fa peccato, ma di solito capito, senso. Questo volevo dire, insomma, perché cioè, secondo me piuttosto di fa ste propagande un po' così, cioè nel senso, allora cioè, la vuoi fare questa cosa? No, ragazzi, questa è una falsità, scusa, se fosse vero non sarebbe, cioè se questa cosa fosse vera, il reddito di cittadinanza non avrebbe funzionato come invece ha funzionato, cioè perché cioè una merda, cioè pieno così di navigator che trovano posti di lavoro. No, è colpa del Covid. Adesso è colpa del Covid. Infatti, Navigator. Ma ragazzi, io ho letto l'altro giorno una cosa molto divertente: uno scontro tra un fruitore di reddito di cittadinanza e chi proponeva di mandare a lavorare nei campi le persone che, sapete, c'è questo problema che non ci sono i braccianti agricoli, quindi qualcuno ha proposto una soluzione che può sembrare un po' forte, ma ha un suo senso, cioè visto e considerato che a fronte del reddito di cittadinanza tu sei obbligato ad accettare delle offerte di lavoro, se no lo perdi. Guardi, ma spengo la cazzo di campanella, cioè, è una cosa insopportabile, cioè. Ma soprattutto che cos'è? Cioè, che il cellulare, il cellulare. E notifiche, suppongo. Comunque, insomma, ogni lavoro dignitosamente retribuito nel novero, diciamo, del reddito di cittadinanza è un lavoro di pari dignità. Quindi qualcuno ha detto: facciamo una cosa, mandiamo le persone, ovviamente non indiscriminatamente, è chiaro che magari un 65enne non ce lo mandi, però dice: mandiamo le persone che stanno percependo il reddito di cittadinanza a dare un supporto a lavorare, diciamo, nei contesti agricoli. E un evidente diciamo fruitore di reddito da divano ha risposto indignato: no, io non è assurdo, non voglio che in buona sostanza ha definito lavorare nei campi schiavismo, e che quindi non era assolutamente giustificabile che a fronte del reddito di cittadinanza gli venisse chiesto di andare a lavorare nei campi. Perché non dimentichiamo che una cosa è stata un po' dimenticata degli immigrati, che tanto ci lamentiamo, che tanto non vogliamo i barconi contro barconi, ma anche la gente che viene dall'est. Il lavoro stagionale, per quanto riguarda i lavori nei campi, che spesso hanno contratti, anzi non hanno contratti spesso, comunque noi attraiamo molti questi. Si chiama lavoro negro. Lavoro negro. comunque, visto che sono loro che fanno le cosiddette campagne, diciamo, quando c'è tempo di raccolta, vengono dall'est Europa, da altre regioni, spesso a negro, a fare il lavoro sporco, il lavoro che stavano gentilmente offrendo ai redditi cittadinanzisti. Con probabilmente con l'emergenza, sì, con l'emergenza non è più una cosa così fattibile farle arrivare, ma soprattutto perché dovresti regolarizzarle, che li regolarizzi, ma che là è divertente perché occorrerebbe una giusta sanatoria, e ovviamente subito Salvini ha invito contro la sanatoria. Il problema è che il giorno prima aveva chiesto praticamente una sanatoria fiscale ed edilizia, cioè praticamente lui che il giorno prima ha proposto condoni di ogni tipo, che fai la sanatoria sui necri, che sei pazzo, allora ti mangio capi cazzo, allora che te zariccio. Oggi ha chiesto il differimento dei controlli antimafia, assolutamente, cioè, capito come stiamo, sì, cioè proprio senza nessuna, proprio senza nessun freno inibitore, dire e il controdire, perché tanto lui sa che se basa su quel 40% di persone che una volta erano solo disinformati, oggi sono anche ignoranti, insomma, quindi già. Ragazzi, breaking news, aspetta, attenzione, vai. Una breaking news pubblicata pochi minuti fa su Orgoglio Nerd. Sapete tutti chi è LeVar Burton, giusto? Sì, Jordi LaForge. Benissimo. È morto. No. Intervistato su Entertainment Weekly, ha dichiarato: come lo dico senza mettermi nei guai? Penso che sia ragionevole assumere che quelle persone che fanno ancora parte della vita di Picard, e io compreso, potrebbero apparire tutte quante assieme, probabilmente non nello stesso momento, ma mai dire mai. Ovviamente sta parlando della seconda stagione Picard. Ma lo sapevamo. Sta quindi ufficializzando non solo la sua comparsata. Lo sta ufficializzando. Lo sta dicendo. Gli hanno chiesto abbastanza esplicitamente, in qualche modo l'ha ammesso. E ci sta facendo sognare una reunion completa, quindi anche con Riker e Diana, che abbiamo già visto, ma potenzialmente anche con Worf. Ovviamente non con Wesley. Io vi chiedo solo una cosa: non mi fate rivedere Diana, perché veramente sta messa proprio brutta. Cioè, è proprio l'ictus che se l'è galoppata proprio. Cioè, sta proprio la bocca storta, tutta proprio brutta. Proprio sta messa male, un plasticone. Se va guardata, invece, devo dire che. Ma se c'è Casciola che ancora, come dire. Ma lascia perdere Casciola. Sì, era interessato. Lui racconta quella cosa solo per dire che lei ha detto che la moglie è bella. Cioè, solo questo. La racconta sempre. Sì, ma non c'è problema. Io glielo dico serenamente. No, che... comunque devo essere sincero, cosa si glielo dice a lui, una cosa glielo dice in diretta. Marina, ma sì, ma è così, dai, dire dai, che si è invecchiata bene, questo poco ma no, è invecchiata malissimo, invecchiata proprio male, altro a dire che bella, che e bella. Invece 7 di 9. Mamma mia, lei secondo me rende più adesso sì, lei, decisamente. No, vabbè comunque Diana Troi non è mai stata bella manco prima, cioè nel senso. Ma comunque... non diciamo cazzate. Vabbè, dai, lasciamo stare. Vabbè, no, ma era solo perché era zinnona, cioè, capito? Allora, noi eravamo ragazzini, quella era zinnona. Dai, non mi dica era una bella donna, perché non lo era. Cioè, allora, più che altro aveva una scollatura che attirava l'attenzione, magari non era neanche così. Poi zinnona, la scollatura ve spiego, poi non ho mai capito perché. Cioè. Grande amore non corrisposto della mia vita era la sosia più giovane della dottoressa Crusher. Cioè. Come sarebbe la sosia? Chi sarebbe? È presente la dottoressa Crusher? Sì. Sono più giovane. Okay. Io sono stato innamorato per forse 6 mesi. Ah, ma non era una persona famosa? Cioè, tu hai conosciuto una persona che assomigliava a Gates McFadden, ma più giovane. E là ho capito che forse mi interessavano più le donne più grandi che non le mie coetanee. Vabbè, lasciamo perdere, una questione complicata. Che bei ricordi, ragazzi. Comunque, io, ragazzi, l'altra sera per cominciare, ho detto, sai adesso cosa faccio? Visto che più o meno mi sono rivisto tutta Next Generation e più o meno. Tutta Deep Space Nine, ho detto vabbè, adesso che ci siamo è arrivato il momento anche di ricominciare con Voyager, devo dire che su Netflix è un po' complicato, perché rispetto alle altre serie che sono state rimasterizzate abbastanza bene, Voyager è partita malissimo. La scena pretitoli del primo episodio io sembrava la videocassetta, l'audio e la qualità dell'immagine erano quelle della videocassetta, che è quello che ci sta. però dopo i titoli non so se perché nel frattempo mi sono abituato a quel livello di qualità, la bruttezza, mi è sembrata che fosse migliorato un pochino. Tu devi considerare che le altre serie sono state tutte rimasterizzate in HD, probabilmente Voyager no, quindi ti devi accontentare, insomma. Vabbè, comunque è una serie che non ha mai funzionato, non è mai piaciuta a me. Beh, diciamo che hanno creato una serie di personaggi che, a parte 7, non hanno particolare, come dire impatto, appeal su... Cioè, alla fine, Genovi te la ricordi perché comunque è un capitano, 7 di 9 te la ricordi perché 7 di 9... Tu, Vok, te lo ricordi, però... No, io più Chakotay, onestamente. Chakotay, però la premessa... Poi alla fine però la premessa, cioè, la premessa era interessante, cioè nave persa. No, no, era, era figa l'idea. Però secondo me non se la sono saputa gestire. Si secondo me là l'errore di Voyager è che le differenze tra l'equipaggio Maquis e l'equipaggio Federazione le appianano troppo velocemente. Sì, intanto c'era qualche scaramuccia, erano tutti stradisciplinatissimi, anche i briganti, no? Cioè, no, ma poi già il fatto che tu nella prima puntata li promuovi tutti sul campo, gli dai gradi, c'è qualcosa che non va. Però era figo perché lì è nata l'alleanza tra, tra virgolette, Federazione e Borg, no? Cioè quel fatto che dovevano sconfiggere lo specie 795, là, come cazzo si chiamavano? 7951, mi pare. Quei cazzo di insettoidi. Quelli biologici. Che venivano dallo spazio liquido, tra l'altro. In realtà da un universo parallelo e dovevano espandersi nel nostro. Esatto, sì. Beh, però loro vivevano in uno spazio liquido, cioè liquido. Tipo una cosa del genere, sì. Sì, difatti c'era la Voyager che quando viaggiava nello spazio liquido faceva le bollicine, era bellissimo. E vabbè, ne abbiamo viste di cagate nella nostra vita, ma le abbiamo amate e questa è la cosa più importante. Allora ragazzi, io direi che a questo punto, facendo un attimo attenzione al fatto che è nato il gruppo, anzi no, è nato il canale Telegram di Runtime, quindi praticamente c'è un canale. È nato. Esatto. Centro sociale, no, scusa. Che su telegram.me/runtimeradio lo andate lì. Ve lo vado a posizionare in chat. Bravo, perché è utile, perché invece di spargere, insomma, come abbiamo detto già diverse volte, i nostri link su tutte quante le chat possibili e immaginabili, ne abbiamo fatta una, state lì e ogni tanto dateci un occhio così vedete quello che pubblichiamo e soprattutto le live che stiamo per fare. Vi ricordo siamo anche oltre 50 membri, quindi insomma i nostri aficionados ci danno piano, retta, piano, piano piano crescono, sì. E vi ricordo anche che appunto sta per arrivare un nuovo podcast. Vi ricordo che io ieri ho fatto da solo una live che è già disponibile in download, non perché l'ho fatta io, però è interessante perché non solo raccontiamo, diciamo, alcuni aspetti della nascita del nostro rapporto con Spreaker, ma poi c'è un momento in cui diamo veramente giù a Spreaker, che è bellissimo. Ma cioè, plurale maiestatis o cosa? No, no, io però io sono più uno e trino, quindi ok. Però no, per non dire che ho fatto questo, ho fatto quell'altro, cioè siamo no, noi, bisogna recuperare, bisogna recuperare. Esatto, insomma è una cosa un po' così particolare, intanto sono le canzoni negre che sono, fanno sempre bene. Vi ricordo assolutamente che domani alle ore 17 c'è Michela con Mono, che insomma c'ha un episodio che si chiama The Sound of Quarantine, che mi ricorda un po' Clementine, anche un po', non so perché, però insomma questo è per chi ha giocato a The Walking Dead, la serie, esatto. che insomma è sempre particolare e ci sono tantissime novità che adesso non ricordo, però nel frattempo vabbè. Ricordiamo che è uscito l'episodio di Data Nightmare, perché l'ho visto esatto, sul mio feed è uscito l'episodio Twitter, di Data Nightmare, ma che subito dopo che vi salutiamo qui andrà in streaming sempre su questo link, quindi se rimanete ancora collegati avete l'opportunità di sentirvi anche l'episodio di Data Nightmare. Beh, io ho detto questo, insomma, sono tantissime novità. La prossima settimana c'è una grossissima programmazione. Abbiamo veramente una programmazione abbastanza fitta e che continuerà a crescere. Quindi di giorno in giorno vi aggiorneremo e poi se ci riusciamo faremo magari anche un post con più o meno la programmazione settimanale. Ci sarà veramente tanta roba la prossima settimana e promette bene anche la settimana successiva. Detto questo, vi ricordo sempre che se volete. Ma stasera parla Conte, toglie il lockdown e ce la mette al culo a tutti. Pazienza, abbiamo fatto il nostro dovere tutto sommato. Insomma, sì, no, vabbè. Conte stasera dice: guardate, io ci ho provato. Ho provato la storia del Corona Bond, la storia di questo, la storia di quest'altro. Non ci siamo. Quindi ho deciso di togliere tutti i lockdown e ammazzatevi. Vi voglio lasciare con una domanda, Pizzi. Stavamo parlando delle donazioni, però è un momento scusami, no, non lo sapevo. Poi dopo ci arriviamo, insomma. Comunque dicevo che se volete andate su www.runtimeradio.it, dove c'è la scheda Runtime anch'io, potete fare, se volete, seguire le istruzioni per dare un contributo, insomma, per dare un sostegno, soprattutto in questo periodo in cui la monetizzazione pubblicitaria è completamente abbattuta, quindi cioè nel senso alla fine ritorniamo all'epoca in cui mettiamo i soldi di saccoccia nostra, e questo insomma alla fine va bene, perché comunque continueremo a farlo. Però insomma, se ci date una mano noi siamo contenti. Se non vi piace Patreon per qualsiasi ragione, comunque c'è anche l'opportunità di fare una singola donazione a paypal.me/runtimeradio. Tutti i link l'ha messi anche Davide Gatti direttamente in chat, potete insomma tranquillamente darci una mano. Detto questo, io direi che continuano appunto il nostro impegno, e seguiteci insomma giornalmente, perché noi continueremo a fare delle live. Vai Walter. Vi devo lasciare appunto con questo interrogativo che ci toglierà il sonno: è possibile che sui Corona Bond cada il governo? Ma adesso il governo è difficile che cada, perché la vedo veramente complicata. Secondo me piuttosto ci si mettono... Se non cade è perché Mattarella non lo fa cadere, mettiamola così. Esatto, diciamo che secondo me al massimo accentra i poteri come hanno fatto in Ungheria. Cose del genere. Se lo fa Mattarella va pure bene, guarda, ma soltanto che la nostra Costituzione non glielo permette. Non glielo permette, no, infatti. Ringrazio e saluto subito i capelli, immediatamente, immantinentemente. Ringrazio e saluto Francesco. Raga, se continuate a parlarmi sopra non ne usciamo da sta cosa. È che in realtà non vogliamo finire la diretta, non sappiamo però, cosa fare dopo. Simone, puoi chiamare Michela, fare anche lei una comoda mezz'oretta come l'ultima volta. Vai Michela, vai, di qualcosa. Salve a tutti. Qualcosa di intelligente. Eccola. Ciao, sono Pietro, sono in, in modalità post training autogeno, quindi sono proprio super calma, super easy, tranquilla. Infatti, entra in stanza e ha cominciato a parlare così a cazzo. No, tu hai cominciato a sbroccarmi, io ti stavo dicendo una cosa. Sei tu quello passivo aggressivo. Ecco, senti che termini a casaccio. Che paroloni forti, mamma mia. Che fate? Che fate stasera? Stiamo chiudendo la trasmissione. Io stavo pensando d'uscire stasera, però non so perché mi sa la biretta, che io ho appena promesso a mio amico che tanto non succede. Però se succede che mi danno i 600 euro, io 100 euro li spendo solo in alcol, e ho promesso di citofonare sotto casa dei Gualdi, così la madre di Marco secondo me muore. Che c'entra Gualdi, scusa? Nel caso ci fai un favore, gli porti il microfono? Va bene. Alcol per disinfettare casa, immagino. No, sì, 100 euro in ambina proprio. Okay. Quindi una fialetta. Bene, amici miei, vi voglio bene a tutti. Ringrazio e saluto Carmine Puccio Console. Ciao, anche da Pietro che è arrivato in braccio. Dai, è Pietro. Pietruzzo. Ma quante ringrazio e saluto anche Francesco. Buonasera, visto? Mi sono mantenuto calmo. Io, bravo, se vedete, porca puttana! C'è scritto sto molto bene da una parte col sangue, però sto calmo, dai. Ok, va benissimo. Ringrazio e saluto dal balcone con l'ultimo aggiornamento, Marco Gualdi. C'è stato il susseguirsi di macchine proprio negli ultimi minuti, c'erano ben 3 parcheggiate sul marciapiede, ovviamente con gente che entrava e usciva da negozi, portoni, e andava in giro a cazzo di cane. Adesso invece la situazione si sta tranquillizzando, è rimasta la macchina e il mini market sta chiudendo. Benissimo, e ringrazio, saluto chiaramente. Sarebbe pure ora, 6-7. Walter Sbano. Il mattino allora in bocca. Bene, bello, perché ti prepari alla serie televisiva The Shining. Allora ragazzi, adesso c'è un brano musicale, poi lo streaming della puntata ovviamente indifferita di Data Nightmare, che poi potete già scaricarvi tranquillamente sul suo feed. E io vi ringrazio e vi saluto, ci vediamo domani con Michela e Mono, e lunedì con Videoludica, quindi preparatevi. Ciao. Buona serata, buona cena.